Dormi, dormi figlia zuccherata, resta incucciunata ancora a me. Chi domani faccio la pignolata è un piatto e tutto per te. Dormi, dormi armuzza di lisanti, non t'allontanare mai di ca. Chi sto mondo è chino di birbanti, io ti vengo appresso ogni va. Dormi, dormi figlia zuccherata, non ti spiccicare mai di me. Chi domani nasce ammaculata, sta Madonna rossomiglia a te. Oh, oh, ninna, ninna, ni ni ni ni na na ni ni na na oh. Duci stuna si tu bello, chi più bello naso non ci n'è. Figlia zuccherata in tasto letto, come nasci dito appresso a me. Dormi, dormi e vivi in tome petto. Ni ni ni na na ni ni na na oh oh ni na ni na ni ni ni ni na na ni ni na na oh oh ni na ni na ni ni ni ni na na ni ni na na oh. Nana, oh.